vediamo. Oh, ciao, Jim. Campa, dai, sto assolutamente a posto con il microfono. Quale microfono? Boh, perché è normale questo? Normale, normale, normale. Ma poco amplificata. Ehi, qua sono, orientato. Ehi, qua. Passaggio a lui che è più lontano, io non me ne sono accorto, non ha cambiato niente. Allora Allora, il micchiere della radio è tutto aperto, così lo sto portando a metà. Adesso è a metà, ha cambiato a metà. No, beh, sì, è la funzione di micchiere di radio. Non ho cambiato niente, metto a manetta. Che la manetta, è così, così a metà e così è tutto aperto. Ma c'è tutto aperto. Già lo risolve il problema, già lo risolve. capito? Non c'è problema per quello qua. Avanti, G. Sai che sto provando un'altra radio che c'ho qua, ne sto provando un'altra veloce veloce. Un'altra nuba. Ehi, a chi si è modificata? Non sentendo lo bip. Tutto forte. Le radio modificate sono così, le chiudi l'eco. C'è il 48, ho chiuso l'eco e basta. Con 3 watt, neanche 4 watt. Sì. Positivo, adesso siamo 5 di San Radio Reddo Casa, mamma mia, guarda. Io sono scelto a brutto, io c'ho mio figlio che soffre malattia, perché non sta bene. Io non sono fatto bene lo stesso, però sto andando a lavorare lo stesso. A forza di fatica per bloccare questo raffreddore, mi ha mangiato un altro domenica. E sono fatto tutto domenica sera, attaccato alla radio, che fa a mucco di la biga. Fatto avanti dopo la radio mucchinosa. Thank you. con i vichinghi tutto a festa. Ma quella se te la apro poco a poco i vichinghi, vedrai cosa succede. Scusa, per me così va bene. Sì, i vichinghi tutto a posto, il tuo mio cuore. Ok. Però io ve lo bacio perché mi hanno chiamato per la cena. Se ci siete, a dopo. Ma se no non ci deve essere. Allora, per l'altro ci vengo, non fa bene. Richiamalo, io lo vado a mangiare e sentiamo dopo. Positivo, dai, va bene, dai, se c'è l'affitto, mi devo controllare l'affitto, e se c'è il tempo a parlare a modulare, va bene, dai, partiamo una carica, te lo dico, ma ho detto un altro prima che sto a buttarci tutto, però ho capito chi è. Buonasera, doppio lungo. Va bene, adesso c'è già, mi vado a mangiare, sentiamo un po' di ci. Ciao, ciao, doppio rumo. Una volta stavo provando il suo microfono qua, dai. Se ho riuscito, se riesco a trovare la tonalità giusta. E questo qua mi sembra la tua voce, quasi la tua voce naturale, però ne ho sentito di meglio e devo essere sincero. Sì, no, lo so già, se tu ci avevo messo un maracchinetto di capo, lo mi. Non so che ne hai sentito, credo che ne hai sentito di figlio. Sei un maracchinetto di 4 soldi. Oh, io, scusate, se riprendo io vi lascio, no, perché mia figlia non sta bene. No? Ci vediamo, ci sentiamo dopo. Gappa, gappa. È affabbiata, ciao, ci vediamo. Poi io non ci sono abituato a questi microfoni da tavola, sì, ma se si rimuove il microfono normale che appartenisci pure un micchio. Allora, mi dico, l'effetto che ti fa è un effetto rimbombante, non mi piace, dico la verità, voglio essere sincero, non mi piace, è un po' rimbombante. Così te la pelle devo tolgare. la notizia che hanno purgato quelli della folletta. Ah, è già la... lo so quello della... che non era fatto... No, ho pensato l'altro giorno, ho fatto quel particolare lì. Che praticamente dicevano che la folletto vecchio non aspirava più bene, che questo qui in confronto era un aspirapolvere professionale, eccetera, eccetera, e così dicevano la gente a comprare. 1400 euro questo folletto, me l'abbiamo preso lui da poco. È positivo, c'è un amico mio che sta vendendo, capito? Che vende Maurizio Bimbo. Quello ha avuto un incidente in moto, aveva perso la gamba. Quello lì sta facendo il coso del folletto adesso. Ma quello che si è andato a lì? E quello lì è. E non hai problemi a camminare? La protesi si è messo, c'ha la protesi. E vabbè, certo, lavori pesanti non la può fare. Eh sì, non fa niente, non la può fare, no. Non la può fare, no. Però siamo attacco l'altro ancora a baracchino e questo me lo metto, non questo, l'altro stavo provando prima, me lo metto giù in garage e subito lascio l'altro. Capo, quello col microfono normale va benissimo. È positivo, dai, ho ripreso nuovamente con l'altro. Sì, dai, che me lo prendo anche io un telecom, ma molto costa. No, erano mancone le manda questi, se l'aveva preso Costanzo, Massimiliano, quasi tutti ce l'abbiamo preso questo microfono, 13 euro. Ma collegarlo alla 48? Lui quando modifica l'area 48 le manda con questo microfono qua. E la stessa cosa sta facendo Sabattino, tutti quelli che modificano adesso, le stanno mettendo questo perché il GTN non c'è più, no? È preciso, però c'è scritto Telecom. Sì, ma ho visto che c'è differenza anche da una capsula all'altra. Eppure se lo apre preciso, sembra è uguale la capsula, però è diversa. Non è la stessa cosa, mi adesso te ne provo qualche un altro, ma non è la stessa cosa. Sì, la timbrica è diversa. Oh già, questo è un altro, non so se è la stessa cosa, e c'era bene lo stesso, però non so se era a livello di quello là. Sì, sì, cambia un po' la timbrica, non è male, questo qui c'ha più bassi, leggermente più bassi. È positivo, se te ne provo ancora un altro. Ma sono tutti telecom. Questo è ancora un altro, però modificato da me. Questo è più presente. Questo è un po' modificato però, Vabbè, uno di quelli me ne sono modificato. Questo l'ho modificato io, adesso vi faccio sentire il CT è modificato qua. Gianni Lo Piuru, questo è il CT è modificato da me. E ce n'è un'altra ancora modificata, ancora diversamente, che ho messo in quel 48 là. Questo è un CT modificato. Come piace più l'altro? Non è questo come l'altro? Ho detto, mi piace più l'altro. Questo c'ha più acuti. C'ha più acuti e la mancanza di medio basso. E se faccio vedere quest'altro CT è sempre modificato da me, e tu vedrai che questo ti vedrai, no, questo già più acuto, più cosa mi vedrai, mi aspetta. Allora, questo è un altro modificato con delle modifiche che gli ho fatto io, questo che sto modulando adesso, sempre un CT. Questo è bello corposo, bello sensito, come si dice. Allora, questo è il CT, ti ho provato tre CT io poco fa. Allora, questo è un CT che gli ho fatto delle modifiche io, diversamente ancora, capito? Poi te l'ho provato uno con la resistenza da 1800, sempre CT, e un altro con, non mi ricordo, gli ho fatto delle modifiche io. Questo c'è ancora un'altra cosa che gli ho fatto io, lo adopero nel 48, lo fa più corposa la voce. Questo sembra direttamente un altro microfono, sembra proprio un altro microfono che non ci intitola con i CTE. È molto, molto corposo la radio e bella presente, no? Un bel microfono, questo qua ha vinto. Io lo so questo, e poi questo l'ho fatto da me. È un CTE, la modulazione, la radio più corposa gliel'ho fatta io. Hai capito? Gliel'ho fatto io. Questo. Sull'altro il telecono, no, il spec è normale. Questo gliel'ho dato io, questa cosa più corposa. Questo è detto la capsula. No, non ho toccato nulla la capsula. È tutto un altro. Lo posso cambiare mica io questo microfono adesso. In questo momento volendo, solo che poi me lo sposto, io me l'ho tarato per il 48, me lo fa girare bene, lo fa mascolo. Lo posso cambiare tutta la tonalità, tutta diversa, qua. Cosa fai? Quello del pulsantino, quello lì è. È un CTE, sono delle modifiche che ho fatto io, faccio io qua, hai capito? Sono delle modifiche che faccio io, lo posso spostare come voglio. Comunque questo qua è il migliore secondo me. Io posso trasformare qualsiasi microfono, io questo posso cambiare adesso, adesso sta modulando qua, nel 48 mi cambia l'eco, mi cambia anche la radio, hai capito questo qua? E ne ho un altro, altre due qua che posso regolare e posso cambiare la modulazione, ne ho altre due, però ci vuole la cosa giusta per girare adesso, io ce l'ho portata di mano qua, capito? Qualche trimmer. E c'ha delle cose dentro, dai, gli ho aggiunto delle cose all'interno, hai capito? Questo per farlo più corposo gli ho aggiunto delle cose all'interno, gli ho fatto una radio tutta diversa. Bella, stava bene. Se te lo faccio ascoltare nel 48 vedi come cambia, quello modificato. Da uno con la resistenza 1008 all'altro ancora, cambia di brutto. Certo, ma questo sembra proprio un altro microfono che non c'entra nulla con quello che mi hai fatto ascoltare prima. Ma lo so, qua c'è, ho adoperato un'altra cosa, dai, un'altro cosa che ho tolto da un televisore. Da un televisore di quelli bruciati, ne ho tolto, smontato qualcosa e l'ho messo qua. Sarà un circuito di amplificazione sicuramente, qualche cosa del genere, di tonalità. Ma questa cosa qua non l'avevo mai vista io, ti giuro, non l'ho mai visto già, è una cosa che mi sono inventato io un giorno, hai capito, non l'avevo mai visto. E provate, ti è andata bene, eh? Sì, riesco a trasformarla, adesso io questo io me lo sono personalizzato per 48, hai capito? Sino a trovare la modulazione giusta che piaceva, hai capito? Faccio le prove, io non trovo quella giusta, però ne ho altre qua che posso cambiarla completamente la radio, capito? La posso dal microfono stesso. C'ho sotto gli stessi microfoni, non ne ho tanti, c'ho solo quelli della Misa, degli originali e basta, quelli ne ho 4 o 5. È positivo, tu ci puoi giocare sul CTE, questo lavoro lo puoi fare sul l'ITEC, sai quello ITEC, quello che a volte, anche quello sono riuscito a modificare. Il microfono amplificato? No, quello non è amplificato, puoi farlo anche più... non si può fare da andare più amplificato, sono riuscito a farlo qualcosa del genere, aumentargli l'amplificazione, si può fare. Sì, quello lo so, basta cambiare il trimmer, quello l'avevo fatto anche io sul come si chiama? Quel microfono della Intec, adesso come viene. L'avevo fatto su quello io. Non il DM1000 ma quell'altro, ma non mi viene, no. Vabbè, poco già mi è capito, quello c'è il cursore lì davanti. Sì, cambiandogli il trimmer si cambia il valore delle cose, o ti aumenta, o ti diminuisce o ti aumenta, le cose sono due, o te la fa più cupo o te la fa più squillante, qua io ho trovato il sistema e tagliala, invece di essere squillante, tagliala un po' corposa qua, questo microfono, ha capito, dato quella tonalità lì. Ma la tua voce si addice, magari a un altro no, e la tua voce si addice. Vedi, se lo senti da 48 non so come lo fa girare, se lo provi poi 48 tu non so come lo fa girare questo microfono. Lo so, sì. Io lo so. Perché quello che c'è non è male, quello che c'è, c'è la lucettina che si accende quando lo schiaccia e cose, è tutto particolare. In più mi ha anche il microfono normale. Così tiro, così tiro. Quello me l'ha regalato in omaggio. Ma io c'ho quello di Novaccio, c'ho quello col pulsantino rosso, non so se l'avete mai visto il CT. No, no. Questa è solo la lucetta rossa, come tu vuoi si accende. Io c'ho quello per l'eco, per fare girare l'eco all'infinito. Quello c'ho, mi aveva mandato quello qui. Ah, ma è Carmelo Maciste. Ce ne sono tanti adesso che modificano baracchine, prima ce n'erano, diciamo, se ne sentivano di meno, adesso ce ne sono molti di più. Positivo, positivo. Comunque qui c'è un baracchino da 13, comunque va bene, va benissimo. Questo qui qual è? Quello che usavo in macchina a Fuji? No, e questo è anche canale sopra, no, è un Intec, è un 2001 questo qua. No, non lo conosco, come è fatto. Ma grande! Sì, essere. Quasi, lo è più grosso di un Pluto, cioè. È più grosso di un Pluto questo qua. La grandezza di un Pluto, ma è più grosso. Di grossezza è più grosso. Prima era la Intec che faceva apparecchi veramente buoni. Anche la Midland, ma la Intec faceva apparecchi che uscivano bene con microfono suo, tipo l'FM500S. Cazzo. E buono, bombava il suo microfono. Allora io di questi qua ne avevo tre. Di questi tre. E c'avevo, questi sono gemelli precisi, c'avevo l'Ala, l'Intec e la Fayette. Tutte e tre la mia. Tutte e tre sono precisi. Metto i coperchi, si scambi, il frontalino lo scambi da una all'altra, è preciso. Cambia solo la mano, il nome è una Intec, che se no sono precisi. Le vette sono tutte nella stessa posizione, tu li metti il frontalino dell'altro e combacia tutto qua. No, ha chiuso perché la figlia ce l'ho sta tanto bene, ha detto non riprende più, ha detto che non riprendeva più che c'era la figlia che non sta tanto bene. Ci sentiamo dopo, avanti già. Dove se c'è una febbre, poverina. Un periodaccio, questo capo, questa influenza è micidiale. Sono 15 anni che non ho di la via, però sopra il resto non ho altri problemi, quindi già va bene. No, vado a mangiare, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Ehi. Va bene, buona carica anche là. Avanti, dici. Ehi, era fatto buona carica. Oh, mi sta piacendo questo corso, è una bella. Sente bene la casa sua adesso di questa fase, sente benissimo, bene veramente. Mi piace, dai, come farato mi piace, l'altro è più completo di questo, però questo qua esce bene lo stesso. Sì, esce bene, sì, è una bella modulazione, bisogna elaborarlo. Questo è cosa la forma, non elaboriamo nulla ormai, questo rimane così. Rimane così com'è. Comunque gli dirò la verità, in tutti quelli che ho modificato il 2001 è il migliore, è vero? È positivo, sì, già, hai ragione, in tutti quelli che ho. No, è per caso no, è migliore, mi piace più il cambio, però perché quel 48 che c'ho, quello napoletano, quello di Sabatino, è bello, mi cavolo, gira bene, ma bene veramente. Sì, lo so, però colui c'ha qualcosa in più, boh. Anche il fatto che non piglia splatter e cose, vuol dire molto. È positivo, dai, è positivo, ne ho un altro fatto proprio. ne ho fatto un altro, me ne ha fatto un altro Roberto e mi ha detto che niente, è pronto, me lo deve solo mandare. In settimana penso di avercelo pure, che è pronto. Ma io glielo, ce l'avevo, glielo ho mandato. Non è l'8001, è come, adesso per sotto come cavolo, comunque come l'8001 più o meno, come apparato, solo che c'ha meno bande, dai, invece avere l'8001 c'ha 10 bande, invece questo mi pare che andate 3 punti solo sopra, 2-3 volte, se non me lo ricordo, 3 volte sopra e 3 volte sotto, però è quasi preciso, però l'ho fatto, c'avevo la scheda, ce l'avevo una scheda a colpo, anzi ne avevo 3 schede a colpo. E gliel'ho mandata e me l'ha fatto, dai, me l'ha fatto e mi ha detto che è uscito, non ci pensava neanche lui che uscisse così, sto contento, penso me lo deve mandare, quello che dovrebbe mandare, però non lo so, però vabbè, c'ha le bande laterali, c'ha tutto quello lì. È sempre comodo anche se non lo adopererlo a casa, se no attacchi l'ecco e già va bene lo stesso. Ma lui autista lo sa più facendo Roberto? Sì, sto facendo, lo sto facendo. Lo fa. Vabbè. È un secondo lavoro, è a rotonda e più. Avanti Luca, buonasera. Che io mi rilascio 5 secondi, ripeti tu. Ciao, bene, Felipe, no, sempre salutarmi che sono arrivato a mangiare, ciao lui. Oh, ciao Lucari, bene, bene ascoltato, ho rimesso nuovamente il telefono qua, ho già. No, va bene, se c'è la che per il costo che ha, ma quello è modificato. No, questo mi è arrivato modificato con la resistenza e l'ho tolta io, perché era troppo forte con la resistenza, l'ho tolta io. Cavolo, ma ho fatto vedere la macchina? No, l'ho tolta e va meglio così, capito, va meglio, lui Piero Lomacone le manda già modificati con la resistenza all'interno, hai capito, e io l'ho tolta, e va meglio senza. Ho capito, ma pensavo che si potesse regolare dall'apparato. Non lo so, io ho passato a Michigan probabilmente. A meno che uno dei Michigan ci abbia qualche altra cosa, qualche altra regolazione. Non lo so. E beh, Lucari, cosa racconti? Forza niente. Computer sicuramente. Oramai Luca ce l'ha rapito il computer. Positivo, dai. Però mi attacco l'altra radio, dai, mi metto l'altra, ci sono più cose. Questa è bella lo stesso, va bene lo stesso, Questa va bene lo stesso. Avanti chi vuole entrare sul canale 12. Dove gli ascoltatori piace fare. E questa non c'è il canale Alfa non ce l'ha questa qua, capito? Però c'ha tutta l'altra cosa, ma tranne che canale Alfa. Questo volume, nel senso che è più bassa come da quella di prima. Cosa è più bassa? Il microfono? No, né il volume della radio. Come più basso, non ho capito, adesso ho cambiato microfono, ho messo il teleco, ne ho tolto l'altro. Probabilmente è come il volume più basso, lo sento più basso, io almeno che sia io, aspetta, che forse ho abbassato il volume volontariamente. Non lo so già, sicuramente quello è più forte il microfono, quello là, l'altro è molto più forte. Sì, adesso però ho alzato il volume e ti sento bene, ti sento abbastanza bene. È positiva, poi mi ci metto l'altra radio sotto. Un bel chiara, Più chiara è questa. Questa qui è bella chiara, chiara. È buono anche questo, no, il microfono va bene, questo va benissimo, questo è normale, mi senta niente, questo sono Piero Lumaccone, le manda questi qua. Piero Lumaccone tramite Tommaso, io sono uscito da là. Sì, cioè, giustamente non ne porta uno, quando la portate l'aveva preso Massimiliano, io, chi era? Gianni Cippone mi sembra, Costanzo, Daniele mi pare pure, ma non me la metto bene, chi tutti l'aveva preso. E allora aveva fatto portare, poi qualcuno di Cagliari aveva fatto portare una decina, capito? Abbiamo capito, ma era arrivato Giacomo o quelli di Fridetti, così? Sì, uno ne volevo io, uno ne voleva Costanzo, uno ne voleva Massimiliano, uno ne voleva Mamentugani. E allora li abbiamo fatti portare, dai, abbiamo fatto un codice e ce li ha portati a tutti, capito? E ne aveva portato una decina. Ma quindi era arrivato Giacomo con quelli di Fridetti, così? E lui modificando le 4 li fa pagare. C'era la resistenza dentro, così 13 euro era, 13 euro, ma c'era già la resistenza dentro, le manda così lui. Una fesseria. Poi la resistenza non costa nulla, non costa una fesseria la resistenza. Sì, ma dico, la fesseria 13 euro per il microfono, non è che sia nemmeno così caro. Non è cattivo, non è molto caro, anzi si può comprare abbastanza bene. Tanto il CT non lo fanno più, al posto del CT stanno operando questo adesso. Cappa avanti, chi vuole entrare? Buonasera. Maria, buonasera, mi metto giù da entrare. È una bella di vulcano. È bella Luca. Allora, buonasera a tutti, come? Noi siamo seduti in questo momento. Va bene, ciao Gigi, ciao Gianni, ciao a tutti che sono andati a fare la carica, Luca mi sembra che sentito. Cava cava, e Luca è entrato sulla salutare, non so se vuole rientrare. Allora, tu prendi Gianluca, dove vieni in diretta? No, ero qui che stavo sistemando una cosettina, capito Giannare? E niente. Giù che stavo salendo un alimentatore che mi serve per il magazzino, per mettere il baracchino giù, però non mi tiene la pensione. Allora adesso devo mezzo incasinato perché devo buscare un alimentatore in almeno 7 ampere, 5 ampere. Bisogna vedere su internet se ce n'è qualcuno, magari anche a seconda mano. E beh, non si può aggiustare quello già. Ma no, cazzo internet, faccia appena da così, un numero di mostrare che è barato, oppure vedi un poco cosa vorrei comprare. Perché ce l'ho uno 45 ampere, 35 di picco, ma non lo voglio scendere, capito? Ne uno meglio con la ventola grande, che me lo sto usando in più, capito? Ma non voglio scendere quello lì. Ho capito. Devo mettere uno un po' da pregio, dai. Esatto, uno piccolino voglio mettere. Pensato per un baracchino va bene. Gigi, già ne hai alimentato. Dove ce l'ho alimentato io? Mi serve uno grande, più grande ancora. Questo che c'ho da 10, Gigi. Praticamente è regolato da CT 10 ampere, con un doppio dissipatore, doppio finale in parallelo, solo che non mi tiene la... certe volte quando faccio il reset, c'è un tasto di reset, me la dà il voltaggio, no? La tensione, perché è anche regolabile, dopo invece se ne scende di colpo. È buono, lo so, questo per esempio che sto adoperando adesso è grande questo è grande, sarà una trentina di amperi minimo. Io l'ho regolato io perché questo è quello che puoi regolare a 16 ampere mi sembra, no? da 5 a 16 mi pare, e no, altri 15. E allora io l'ho messo al massimo, essendo al massimo l'ho fatto a 13,9 al massimo, per non sbagliare a volte lo te ne avvisi ieri e ti arrivi a 15 e la cosa è truppa. Allora, ho messo un corrente fisso, dai. Questo che stai facendo più è come quello che c'ho io che sto usando adesso. Un 55 ampere, un 50 ampere mi sembra che sia. Scusa, un attimino che abbasso un po' le cuffie. C'è la è regolabile, oppure dietro c'è un tasto che è da 13.8 fisso. Se vuoi bucare la garanzia, ma non si fa 13.8. C'è anche il regolatore delle cose. Aspetta, scusa, qui c'è una radio mai vista, lo vedi? Non vado mai a battugare. Vediamo dove è. Questo c'è l'antidisturbo. Ok. E lì sono da diavolo è. Ma questa è la regolazione che sono switching noise off. Cosa cazzo vuol dire? Una cosa che non so cosa vuol dire. Oh, vabbè. Vabbè, sarà deciso il no, ero già bene il microfono, ma radio stavo cambiando. Come mi piace scendere? Stavo dicendo Gigi, l'ho cambiato anche i finali in quell'alimentatore, pensavo che appunto fossero i finali partiti che non erano la potenza, no? Me l'ho sostituiti di questi finali, questi fatti ovali, vabbè io ti do 35, 32 euro, vabbè, già mi avrei capito cosa diavolo so. Positivo, dai, positivo. No, io già ne ho alimentatori, ne ho regalato qualcuno, un paio ne ho regalato, dico la verità, no, ne ho regalato tre di alimentatori, ne ho regalato una Ritta, uno a Pinocchetto, uno a Tommaso e poi l'altro che l'ho regalato non me ne avvento più. Uno me l'ho reso 3 ampere, ma non penso che la base, poi cazzo che la base. Vabbè, faccio che sumando, bisogna che prendi, che mi un umano in più rispetto a quello che sto usando, però non lo volevo accendere giù anche perché si sporca magari con la polvere, capito? Non è che lo puoi bappare, io sono che travaglia all'aperto, c'ha tutti i dissipatori sui fianchi con tutti i finali, da quanto è lungo l'alimentatore. Ma se tu figura di dire me lo presento un Galaxy. All'incirca come tre cose, forse una migliaia, un po' di più della metà del Galaxy, come del frontalino, a stessa altezza. E dopo è profondo, più profondo del Galaxy. Capito, capito. No, io quello grande non ce l'ho più, ce l'avevo a 24, ma non ce l'ho più. E però già c'ho altra cosa a 24. No, quell'altro, poi c'ho quello in garage, visto che c'è un altro paio in garage, c'è quel Soinci, come che ti si chiama, quello che sarà 25 ampere, e più un altro ce n'è, e due ne ho qua, altri due ne ho qua, me ne hanno tenuto due qua, due grandi, dai. Questi due mi pare avevo preso tutti e due da Salvatore Branca, erano di Salvatore Branca, questi due che ho qua su. E piccoli, quelli di 5, 6, 7 ampere, tra tutti regalati, chi si. Ragazzo, dai, io non pensavo di venire a questo visto, che ci fanno i piatti, Avevo uno che mi è dispiaciuto tanto quando l'ho visto smontato, mi è dispiaciuto, guarda, ma tanto, dico tanto, che era, quello c'era scritto 5 ampere, ma era la carcassa solo. Chiso era dentro, l'aveva tutto rifatto, la polone, ma è Giancarlo, l'aveva costruito lui per attaccare quei baracchini un po' potenti, modificati. E Chiso che ha visto che era in zincampè, l'ha tutto quanto smontato, l'avevo regalato a Pinocchetto, guarda, l'ho regalato a Pinocchetto e lui me l'ha smontato pensando era 5 ampè. La tutta di Vito del Borgone era potente da come si chiama, era tutto smontato, mi sono incazzato da lì. Cazzo, quello ho pagato, ho speso, mi ha dato quell'amico di Lucca e Giancarlo l'aveva fatto, la volante Giancarlo aveva fatto tutto il coso dentro, perché lui lavorava prima di andare in pensione, lui lavorava in un'industria, in una fabbrica che costruivano alimentatori, ed era il mestiere suo quello lì, e sapeva come costruirli, e mi aveva fatto questo coso manno, pesante che trono, piccolino ma pesante, con dei condensatori enormi, pariane chi si cose del lineare, quelle valvole lineare pariane. Chi sei condensatore dentro. Aveva fatto un coso grande, e Pinocchetto l'ha smontato, pensando che fosse 5 ampere solo. E più nessuno. Gigi, stavo mettendo di una cosa qua, mettere a posto. L'altro che stiamo operando prima era gemello di quello che hai visto giù da Giampaolo. Gemello di che cosa? Dici, non ricordo, perché io non mi ricordo adesso di cosa stai parlando. Sempre dell'alimentatore? No, di paracchino, che stavo operando prima di questo. Ma, non mi ricordo quale baracchino di Giampaolo. Gavi, dai, questo qua l'abbiamo messo con la preficcata e non va bene poco fa, il coso PC, l'MP2C, questo deve fare qualche lavoretto col microfono, perché non sta andando. Oh Gianlu, questo è quello presidente del George. Ma con quel microfono stai usando? Normalissimo, microfono normale. Un microfono telecom normale. Bene. Ecco il suo, questo è della, del lui, che c'era lui dalla casa. Che watt saranno 5 watt? E un 5 watt sta uscendo adesso. Ma va bene? Va benissimo, va bene, benissimo. Gianni. Insomma, ce ne sono tanti microfoni, tanti apparati, ogni tanto bisogna cambiare, provare, si sa quale ci meglio. Le cose che ho fatto qua, io poi mi sono pentito di averlo fatto. Ho cambiato le connessioni del microfono, questo apparato, l'ho fatto a 4, perché lui ce l'aveva a 6. Da qua tu cambiavi anche dal microfono il canale, ti potevi cambiare anche dal microfono. E siccome ho detto, ma va, c'è una visita adattatore, mezzo adattatore, adesso glielo cambio del tutto, lo spinotto all'interno, vedi come si chiama, e così metto tutti i microfoni a 4 punte. Fai bene, io almeno ricusare tutti. Buongiorno. Cosa ho? Giallo? Sono un po' stanco, detto. Sono un po' stanchino, eh. Ho fatto tante cose stasera, siamo usciti, portato al mare in piscina, siamo andati a fare la spesa, insomma, non ho fatto di gozzo. Invece un'altra volta mi ha formato quello sequestri, boh, non so, anticrimine. E mi hanno chiesto un pericolo sulla macchina, ho detto, vuoi avere la tassa? Ho detto, oh, non c'è bisogno, stavo solo chiedendo perché mi entusiasma, dice, parlare alla radio, visto che ho sempre fatto questo tipo di lavoro, sono stato sempre in radio, mi piacerebbe averlo. Ah, positivo, positivo. E beh, a volte già ce l'hanno. Allora, un amico mi ha detto che era nella stradale, che loro mettevano in macchina il baracchino della 27, facevano ascolto. Quando tu segnalavi per dire, tu camionista, un altro camionista, segnalavi che c'erano loro, che tutti fermavano ed erano cavoli, mettevano multe allucinanti, poi c'era una denuncia penale, una cosa del genere. E loro ascoltavano con questo braccio della 27 e l'antenna magnetica. Io lo so, lo faceva il Stanca, quando diceva i fratelli che erano autisti, lo Stanca lo faceva. Se ti beccano, sono cavoli, lo sai, lo segnalando. Praticamente favoreggiamento eccetera eccetera. È positivo, positivo, e ma già si rilassano pure loro. Era Alessandria, quest'anno qui era Alessandria, appena non trasferito qua e poi adesso è andato in pensione perché l'avevano tamponato mentre stava facendo pattugliamento, questo autotreno è andato fuori strada. Ha tamponato anche la polizia, il collega è riuscito a uscirne subito, quindi la macchina ha continuato, è caduta nel burrone e il collega praticamente è sceso giù e ha tirato fuori quest'amico mio e poi la macchina ha preso fuoco. E il collega l'hanno premiato, gli ha dato la medaglia d'oro e a me non li vuole parlare, lui che è stato in coma un po' di tempo non li vuole parlare, ma con la pensione. La medaglia blu, quando ti premiano l'Avis, cosa è? La medaglia blu, non lo so. Io non sono mai stato donatore, già non ti dire una fesseria. Non sono mai stato donatore, io all'Avis ho guidato l'ambulanza. Perché ho fatto croce blu, poi sono stato un paio di mesi all'Avis e poi sono entrato al CISO subito. Però di questa medaglia blu non ho mai sentito parlare. Sì, mi arriva la lettera dell'assemblea e me l'ho convocato. Vai, sarà un'efficienza perché tu doni il sangue. E io mi sa medaglia blu a Giamantese. E vabbè, vedrai quando farà. Ma sai che lo puoi chiedere a Babuzzo che lui ci va all'Avis. Ma Rizza? A Babuzzo. Babuzzo, che cos'è? Babuzzo, non lo conosci? Quello che fa che è anche al CISO. Dillo Giampaolo, che lo conosci. Oh, io faccio bianco, chiudo perché domani mi alzo presto, dai, mangio qualcosa e poi me ne vado a nanna, mi guardo un po' di televisione e me ne vado a nanna. Dai, io vi saluto, dai. E tutto a domani sera se coincide qua in radio, dai. Io mollo tutto e mangio qualcosa e poi me ne vado a nanna. E oggi, dai, buone cose, buona carica e buona continuazione, dai. Fino a quando vai a nonna. È buon trabocco per domani. Avanti, Gianluca. Ciao Gigi. Buonanotte, buona carica e buon tutto per domani. Sentiremo la radio, senz'altro. Ciao Gigi, buon tutto. Ciao. Allora adesso di radio come sto uscendo? Va bene. Ciao gara. Lo dico, confronto la prima volta che l'ho sentita, ha cambiato. Beh sì, senz'altro. Non sei più regolare, non so, insomma, non è trattato quasi niente, non è che mi ha giocato a fare alla picco. è più forte anche. Guarda, io non è che, ripeto, ho sentito che c'aveva problemi, che poi l'ho fatta riparare, tutto lì. Vabbè, sto chiedendo se c'è differenza, se non c'è, vabbè, non te lo ricordo e basta, tutto lì. Ecco, ragazzi, andare, via. Ha detto che anche tu sei dalla mattina presto, ma io Gianluca, io sono diabetico, i diabetici si stancano molto, tu non sai che cos'è questo tipo di malattia, ti stanca un bel, anche se non fai niente sei sempre stanco. Lo so, ma ti vedo TG, ma già, lo risolvo, per me penso che ti prepara le pasta con caldo. Sì, no, ma anche il lavoro, magari il mio lavoro stanca un bel. Io sto sempre caricando, scaricando, facendo scale, già lo sai, già mi vedi, non è che sto mai fermo. E quindi tutto insieme, a volte anche quello che mangi, magari ti fa l'effetto di fare i drumi, hai compreso? Addirittura una signora stava raccontando che è entrata a fare la spesa e il marito la stava aspettando fuori. Quando è ritornata ha disabilitato un raio, il marito l'aveva messo sul volante, l'ha trovato, ha aperto lo sportello non si svegliava, e dopo si sveglia, e cosa aveva? E cazzo, mi ha fatto vedere un raio, e invece con drumito, è diabetico, non si è addormentato più mai. Mamma mia. Ci sono dei periodi che magari ti fa addormentare di più, ti stanca di più, ci sono dei periodi invece che magari non senti nessuna stanchezza, ecco. Questo fatto qua già me lo fa, della stanchezza, ma non so se attribuirlo a una cosa o all'altra, però questa stanchezza a volte anche la domenica, no? Ti prende questa stanchezza senza sapere il perché. Poi magari ti inizi la glicemia e ce l'hai alta, capito? Ah, beh, certo, vabbè, comunque sia. Come se potessi sotto controllo. Ma dove sotto controllo? Ma la mia moglie per prendere l'appuntamento e non ci avevano già lui la rubrica. Non potevano aprire l'appuntamento perché avevano finito la rubrica, non gliel'avevano passata la nuova e quindi non potevano scalare, secondo me uno gatto non si può, no, non lo so, se da sapevo gliel'avrei comprata io. Ma gliel'ha fatto vedere a mia moglie, finita, cioè dove scrivo signora? Io, a me non mi hanno passato, ho fatto la richiesta, non mi hanno passato la rubrica. Deve ritornare. Adesso ci deve ritornare perché devo prendere l'appuntamento, perché devo andare a farmi controllare. Se ne va bene di sanità, non se ne va bene di... Se ne va bene di mancare un paio di guanti. Allora, io ho un'amica che lavora come infermiera all'ospedale. Sì, mi ha detto che lì sono mancate le siringhe, non potevano fare niente perché non c'era le siringhe, si è dovuto fare il giro tutti i reparti cercando siringhe. Non ti dico altro. Sì, stiamo andando a finire la catastrofe, tutti i settori sono così. Non è questione di beneficio, è questione che cercano di risparmiare, le ordinano di meno. Io quando mi sono operato all'occhio, al policlinico, siamo stati quasi un'ora aspettando, già c'era stress perché ti devi operare. E poi il fatto di aspettare ti stressa ancora di più. Abbiamo dovuto aspettare che arrivassero la macchina che portava, perché ogni volta che devono operare si portano le lenzuola, la corretta, i ferri sterilizzati, tutto quanto, e ordinano tutto giorno per giorno, bisturi, posso dire, tutto ciò che gli occorre in sala operatoria, glielo portano giorno per giorno in base ai pazienti che ci sono da operare. Vedi che è un'emergenza, ma che cosa che non si resista lì? Se ne va bene. Ah, tu preoccupandosi, ed è altrettanto. Ma il paziente, ecco, io vabbè, in oculistica non è che credo, però io ho visto un caso di questo qui con la moto zappa, questo ragazzo, il padre se n'è andato, ha lasciato la moto zappa, quando è ritornato a prendere la ragazza ci ha fatto in terra. E cosa è successo? Che moto zappando ne ha scavato un ferro grosso, un ferro tipo quelli che usano in cantiere per armare il cemento, ecco. Ha fatto una mola, le brincate, una se l'ha pigliata luce e l'ha proprio accecata. E l'hanno portato all'ospedale e allora mi avevano appena operativo, ero nel letto, un giorno mi pare che c'ero, ero nel letto e fatto sta che arriva questo caso urgente, invece di portare l'operatura lo portano nella stanza nostra, lo appoggiano a muro con una barella e questo ragazzo non andava, dava solo segni di sofferenza, non parlava niente, era mezzo svenuto. E fatto sta che c'erano qui dell'ambulanza e ho detto, ma questo ragazzo così lo lascia. E dice, mi hanno raccontato cosa era successo, no? Perché mi conosco. E ho detto, no, questo ragazzo, prima cosa, anche sulla gamba mi pare che gli sia passata la moto zappa come cosa, era tutto finito, fatto. E dovevano fare l'elettrocardiogramma, gli attaccano la macchina, l'elettrocardiogramma, che non funzionava. Allora dice, vabbè, lo dobbiamo portare in cardiologia perché non ci funziona l'elettrocardiogramma, dimmi tu, cazzo, questo qui, cazzo, tutto bruciato, il tuo sanguinone, ma io non lo so. E ho detto, ma cazzo, alla fine mi sono alzato dal letto e gli ho detto, ma quando mai, chiamate i carabinieri, ma quando mai, cazzo, questo ragazzo si sta soffrendo comunque, se poi quando sono venuti i pariti glielo ho detto, che l'hanno dovuto portare lì, la cosa è tutta la sua letto, così in modo che se succede qualche cosa sappiate tutto. Di biglietti a bordo, gli stavano chiedendo, sai che cosa, il cartellino sanitario ai parenti, ma lì mi dico, un'urgenza, una cosa, quando mai, poi devo chiedere queste cose qua, prima fai tutto ciò che devi fare, c'è anche una frattura al cranio e cosa, il biglietto di Sciuffero deve essere che era fatto effetto molla, come lui ha scavato due brincadura e la biglietto in piedi. Si tratta la spinta una cosa del genere, cazzo, boh. È una sfiga grossa, proprio una sfiga, e meno male che il babbo è tornato da pigliarlo, se no eravamo in chibi sanguloni, e vabbè, ma di mala sanità, se devo intendere, guarda, ore e ore aspettavo il proprio soccorso, quando abbiamo fatto mio padre, ore e ore, già lui, mi sono fatto un turno di lavoro in più. Dalla sera e di metterlo alle 4 di mattina, visitarlo alle 3 e mezza, alle 4, dopo 3 ore che abbiamo aspettato, e non lo possiamo ricoverare, non c'è posto, ho fatto andare di nuovo a casa, capito? Non si sa più cosa pensare. È proposto. Sai che c'è niente ancora? Non c'è niente, questo lì di Cotteregiani. Meno male, grazie, dammi una colpa di vento, un bitto, un cuscino, se non mi posso dire che cosa. Quelli molte volte operando li si dimenticano i ferri, già li ho sentiti, ma come si fa? Ma dimmi tu. E quando le portole, se non le vogliamo parlare, aveva anche ancora un seno e l'hanno operato l'altro. Dice, questo sono su freddi, non si protegge una cosa che sono su freddi, ma una cosa che non va via lì da base. Chi sa che mi dovrà ne cavare o non me la ne cavare? Allora, dimmi tu. E cose le potete travagliare, compreso molte che si travagliano in officina, ma dite no, non lo dice questo, e vabbè, ma sono come di mattinata, ma non sono come di bastone, non ne ho tutti niente, cioè non... Questo sul travaglio è un travaglio, sì, chi si può sbagliare, per carità, perché siamo tutti umani, perché tutti siamo umani, ma certe cose quando le senti dici, ma cosa ti sorprende quando sono qui? Cosa ti intende? Sì, ma la roba di tutti, io mi ricordo quando mi hanno operato a Lucca, sai, io che ci muoio l'ultimo, io che ci muoviamo, dobbiamo andare a mangiare, io gli ho detto, siccome c'è un'anestesia locale, gli ho detto, tu calma, che ci sono io sotto il ferro. Allora, che cos'è? L'interesse di cos'è? Allora, avevano infame, capito? L'ultimo ero io, per mia scalonia, quando mi hanno operato al calazzo, mi era cresciuta una palla tutto nell'angolo dell'occhio, tipo un zaiolo, però era un calazzo, si chiama così. È una palla di grasso, devono incidere per fare il taglio, toglierla fuori con delle pinzette, perché io visto come l'hanno fatto, rimane una specie di filo attaccato, e tagliare questo filo che c'è attaccato, che sarebbe la radice, buh. E niente, poi non mi è più cresciuto, la verità. Però era fastidioso, ti dava un po' di prurito all'occhio, ti sfregava al controllo che ti dava prurito. Ma scusa, infatti di avverare, sai cosa vuol dire? Infatti il dottore mi ha varato delle pomate prima da mettere, sembrava che si stesse assorbendo, e poi è di nuovo, poi era pus pure c'era in mezzo, quindi si stava andando così un po' male, quindi mi hanno dovuto operare per forza. Ma io gli occhi ho avuto tre operazioni, quella lì e due lenti di cristallino. Cristallino le ho messe perché c'avevo la cataratta e mi facevo vedere tutto quanto hanno il dottore, cioè grazie a Dio c'è 11 decimi a un occhio e 10 decimi all'altro. Un attimo, già che mi avevo questo pantalone, mi vedi a 10 minuti di tempo? Ehi, ehi, te ne devo fare la musichetta. Ehi, non sei bello, mica. Oppure chissà, come si chiamava, IMC, il video del tipo. IMC. Negli stampi cioè, mi stampi le istruzioni. Cioè, la stampata che è rotta adesso, non ha mai, cioè, non l'avevo già fatto. Devo stamparmi le istruzioni, di modo che sappia che cosa serve un posto e che cosa serve l'altro, perché su internet l'ho trovato, le tue istruzioni. Se trovo un computer con la stampante, me lo faccio stampare. Ci sono tutte istruzioni in italiano. Ma che è questo? Ah, vero, dai. Non tu mai cacciato, non sei buon accidente. Sono un po' di stai trampato. No, qua ci sono le... praticamente c'è solo le, lo schema dell'apparecchio, c'è l'apparecchio con tutti i tasti perché cosa servono, capito? Cosa era stato fatto, che tipo di lavoro è stato fatto, eh? c'è un mancato integrato, che è l'integrato del che praticamente manda in protezione la scheda CPU e quindi non come scheda che per protezione, quindi a freddo va benissimo, a caldo per protezione praticamente non ci bloccano i watt, capito? Perché è un 3 conversione a differenza del 140, quindi c'è la protezione anche sulla scheda CPU. E allora niente, allora aspettiamo questo integrato e poi glielo. Ma no, va molto bene, va molto bene. Con il tono va bene. Come? Con il tono va bene l'integrato. Ho capito. Io mi ricordo che tu avevi un apparecchio che avevi detto che portavi da carro e cose, non ci va bene quell'integrato che è tu. No, no, io ce l'ho il GX2, non va bene. Il microprocessore sì, sono uguali, ma il microprocessore non si può staccare, capito? Perché non è un componente dove tu lo disaldi. Il microprocessore è una piastrina che praticamente è stampata su un circuito stampato di una scheda e va a coprire tutto l'insieme di quello che è la parte del vero microprocessore che è la scheda della CPU, capito? E quindi quella ci sta, è la sua, è a posto, però questo integrato in modo che sono migliore sia pure più grande. E quindi quella del cadetto, la scheda? No, devo trovare l'integrato, adesso Carlo me lo procura il contenente degli amici suoi che sono collezionisti di questa radio, capito? Ah, e quindi c'è da aspettare. Che già. Devo aspettare, devo guardare a posto perché adesso è tutto a posto, tutta purificata, fatta. Spero che non ci rimetta le mani nessuno, è allineata, perfetta. Adesso le procurerò anche, adesso userò il microfono mio, l'MC80, poi le procurerò un microfono della Yaesu a tavolo, l'MD1C8, quello che facevano prima, che è proprio il suo specifico. E così c'ha tutto a posto e si abbiglia in gomma e rossa mano. Quello è quello dedicato al microfono, caro. Ma vabbè, quando non le sai le cose, è anche diverso voltaggio che il microfono abbiamo messo lui, diciamo, no? Non ho fatto casino, l'ingresso è simbolo. L'ingresso dei microfoni amplificati con la radio HF sono tutti quelli della Yaesu 6 volte con la Kenwood 8 volts, Kenwood Icom, quindi lui entrando con 9 volts anziché 6 volts è andato a sovralimentare il microprocessore della scheda CPU e l'ha crepata, l'ha tagliata in due. Ci sanno le cose, infatti qui sono apparecchi delicati, se non lo sai meglio che non li tocchi, se non sai come metterci le mani, meglio non toccarli, non è così già. Attenzione per gelosia nei confronti di Fabrizio o di chiunque altro, per carità me ne guarderebbe, però tu sapevi che io sui Kenwood potessi lavorare benissimo e non hai avuto fiducia a darmelo, l'hai dato a Fabrizio. Massimiliano, con tutto il problema che ha con la radio, aveva con la radio, e pur sapendo che io sui Yaesu non è che sia bravo come Kenwood, ha avuto fiducia, e questo te lo butto. Io ti spiego, non è che non ho avuto fiducia, però se ci vogliono gli attrezzi eccetera eccetera, tu non hai gli strumenti, capito? Dovrebbe essere anche allineata e fatta, quindi io ho preferito portarla a Fabrizio perché so che c'è tutta la strumentazione per allinearla e farla, capito? Non vale volere, non pensare che non l'abbia fatta perché non ho fiducia assolutamente. Anch'io Fabrizio, per non andare da Carlo, gli ho dato allinearmela sono andato a casa stasera, lo so, come mi sei detto tu, verso le 4, sono rientrato fino alle 6 e mezza, passate, insomma, lui c'ha tutto, quindi l'abbiamo fatta lì, proprio per non rompere le scatole a nessuno, anche perché con Carlo c'ho un diverso rapporto, abbiamo sempre fatto tantissime cose assieme, ho messo a posto tante, eccetera, eccetera, però devo dire che quella di Massimiliano viene ordinata, pulita, e spero, mi auguro che non ci metta le mani più nessuno, perché altrimenti non posso andare a fare più niente, perché i pezzi che servivano li abbiamo già tutti in quella radio, e alla fine poi è un casino, capito? Avanti, Gianluca e Petti. Io invece avevamo un medico, ho visto l'alimentatore della CTE, che ci ha veramente un pezzetto di alimentatore, regolabile con gli occhi strumenti. E niente, questo alimentatore praticamente non richiede l'attenzione. Per un attimo sale la lancetta del vostro per la regolazione e dopo finisce tutta un po'. Grazie del messaggio a chi me l'ha mandato. Ti ho detto, Gianluca, se mi dici esattamente che cosa ti serve, che schema ti serve, perché qualcosa c'è ancora, qualcosa c'è, un sacco di cose, non è che se posso fare, insomma, se posso esserti utile, mi fa piacere, fammi sapere. Allora, l'unica cosa è una di levarlo da qua, mattina col capezzo e guardarlo, perché io mica lo so che c'è da se ci vuole una scheda, se ci vuole un componente, basta un componente, perché tutto il resto funziona tranne che quella commutazione là, capito, nel display commuta, nel display si accende il LED, però magari non commuta all'interno. Nel display commuta? Nel display commuta la banda, capito? Adesso non mi ricordo se era la USB o l'SSB che non funzionava, forse la LSB, capito? Quando schiacci commuta si accende l'ED come si imposta di banda, però dopo non c'è. Non ti dà la banda sul display? Sì, sul display sì, te l'ho detto, sul display commuta nel tasto, forse è da dentro che non commuta, non lo converte, capito? sono due ore per ogni banda, e quindi se ce n'è uno bloccato 757 per insomma venire incontro senza speculare a nessuno, perché io non voglio soldi a nessuno, lo faccio per obbligo, e quello che posso fare faccio. Ok, Gianni. L'albergo, a quello di Massimiliano si può cambiare, si può recuperare. L'albergo gli ho già messo nuovo e il volto gira soffiandolo, anzi con la lingua fa girare adesso. E poi quello c'ha la posizione per metterci il dito, no, il volto? Sì, come 430, 430 c'ha il coso per mettere il dito, ma quello là neanche con la pinta girava. Di quanto era storto e tutto, lo so, e lo so nuovo anche quello. Era ingrippato, e tanto che poi lui è stato fatto con me, ma dopo era una grandissima cantata, perché l'avevo vista anch'io, potevo fare anche una cosa del genere. Mi ricordo bene, ma già è abbastanza manovrabile, sono radio belle perché è corato, infatti poi ci può mettere domani. Sì, era anche lui ingrippato, dopo sotto c'è anche quella registrazione, c'è una funzione per farlo sensibile più troppo. Ma questo c'era proprio l'alberino storto, capito? Quindi l'ho smontato mentre caro stavo preparando il microfono, l'ho smontato, l'ho messo nuovo completamente, tutto l'alberino, pomello, tutto nuovo, nuovo, mia bella. Per me 9757 con 140, che una due conversioni, l'altra tre conversioni, capito? E quindi è un po' più stabile come radio rispetto al 140. Io l'avevo avuto anni fa e ero veramente molto soddisfatto. Poi c'ha tutti i filtri in ricezione rispetto al 140, che non ce li ho perché non sono in dotazione, e invece poi c'ha tutti i filtri, c'è il filtro AM, FM e SSB. Ho visto che niente è. Ho visto che ne ha tre, quindi ecco perché non ci vediamo, riceve molto bene, perché c'è anche i filtri a 1600, a 2004 e a 3006, mi pare di aver letto, che comunque stringono bene la modulazione, la fanno larga e stretta, va bene. Una bella radio. Va bene. Ui, è cazzato io che sa. Ma domani cos'è, sabato? Mamma mia, che rottura di balle, poi domani, così martedì, ma domani c'ho poca cosa da fare, mercoledì. Forse ci ho di fare anche a piedi del vestiario, ho accennato di nuovo, la vestiario nuovo, la giubbotti, che rottura di balle, ma su una nuova strada. Tutto nuovo, altro armadio, ci butto, adesso vediamo se la butto, non so. La roba vecchia, però ho usato pochissimo, però giù molti me li tengo perché sono caldi, nuovi. E, vabbè, pazienza, se abbigliamo lo possiamo. Comunque se fosse un ascolto saluto a Massimiliano, so che c'è Gaia che non sta bene. Un bacio grande a Gaia, Massimiliano, se sia l'ascolto. Poi domani ci aggiorniamo. Cappa. Giampaolo, Gesù. Giampaolo, per chi mi sono andato a fare in visita. E niente. Non so se riprendeva, ma non l'ho sentito. Siamo sentiti proprio prima di andare a cena. Devo portarlo a buco, se sarà qualcuno, se magari Massimiliano domani si avessasse a fare qualche commissione, bisogna che passi a prendersi questo microfono, che me l'ha prestato, il microfono da palmo, per tornarglielo, tanto quello di Massimiliano glielo metto nuovo, il microfono suo originale, con le visioni giuste, tutto a posto. Vabbè, poi Carlo mi ha stampato anche tutto il manual service che non ce l'avevo, non ci vediamo, tutto il manual service. capito quella volta. Vabbè, ne ho un amico grande, che devo conoscere una vicinanza. Quando c'erano i mezzi di trasporto, allora trovavo tutte le mattine a scuola, ai geometri. Era figura di Mirello. Mirello l'hanno voluto io, che esce Maria Gare, figura tenella. Lo conosco dall'80, 86, 86, 87. A Carlo, Carlo circa 23 richiamanti. Non è che veniva una di quei bulli, una supposta, no? Capito? Quindi mi rimane quelle 4-5 ore con la febbre, poi deve rimetterle la tachipirina. E vabbè, ma magari qualche ris, la pizzicata, vabbè, adesso 5 giorni a casa siamo. E va bene così. Avanti, clà. Niente va male di casa in cui a casa. Non sono presente ma niente. Eh no, è un problema che so, che ha rifiutato tutto. Se ti fidi non ho mangiato, ma proprio due patatine fritte, ma proprio puntate, che me l'ha passata pure la fame, infatti non conto. Sabato ida con patate. Quindi sempre patate, tante fritte, le mie con patate e patate, vabbè. Vabbè, e non è invece martedì, mercoledì, se voi venite porto a Cagliari. Così mi ritiro la radio. E che cosa ti devo ritirare? 9:40. Davvero? E quando vai di mattina? Via. Prendo un giorno e vado. No, perché a sua vita non si fida Giuseppe. Non si fida. Faccio una fermanotte anche via, ragazzi, domani. E ma cosa fai? Tu scendi presto o risali o rimani lì a pranzo? Andiamo e saliamo, che partendo alle 8, fanno con me verso una quarta, anche prima di mezzogiorno siamo a casa. Ma se non devo lavorare, che non devo fare niente, già vengo là, non c'è problema. Sardegna, quando devo viaggiare in nave, in aereo, in tutta, se la dai a qualche corriere, magari la sbattacchiamo qua e là. No, ehi, cazzo, se rompe qualche pomello o qualcosa in quella là, è difficile trovarla, capito? E quindi siamo usciti oggi. Mi ha detto se volevo salire a prendere la macchina pronta, perché non me la spedisce. Adesso ho già chiesto solamente a me di bere queste rotture di palle che ho, e poi mercoledì ci faccio un salto in extremis, se non riesco a liberarmi mercoledì, glielo ho detto, ma facciamo un salto a fine settimana, sabato mattina magari, quindi stamattina, tanto non ne ho fretta. È già guardata, pronto. Cavalcava. Massimiliano, se sali a Sassari per qualsiasi cosa domani sera, passa a prendere il microfono di Giampermi, così glielo fai avere sia che le serve. Eia. Passo e così lo ritiro, là. E non so, qua. Se vado al pediatra che salgo a Sassari che Gaia non c'ha la febbre, se non ho la febbre domani molto probabilmente magari domani sera ci facciamo una scappatina alla mia suocera, capito? E quindi magari mi faccio una scappata e lo prendo con il microfono, dai. Se vado a tua suocera già sei vicino, pensa te lo prendi perché magari le serve per trasmettere e glielo avvicini, che tu sia a metà strada, se no io prima non posso scendere prima di fine settimana, capito? Non ce la faccio, quindi magari se la serve così glielo dai, aspetta che già Luca se passa in ufficio, se va in ufficio avvicinarsi un attimino, e dove proprio il conduttore, se lo anche a Sandro, insomma, qualcuno che passi a prendere sta cosa, se no mi viene male scendere apposta. Bene Meda, avanti Gianni. Sono giunge. Se sale Massimiliano, qua si accede dalla suocera, siamo vicini, passa se lo prende e glielo porta. Come ce l'ha dato, lo dobbiamo portare, giustamente. Quindi Massimiliano non ci mette niente a fare un brinco là, ai punti. Se poi Massimiliano parla che è, allora lo porto a Gianni e glielo passo a Gianni quando esce a lavorare, capito? Non c'è problema. Se per sta meglio io domani salgo, se no Massimo dopo domani, hai capito? Cioè non è più buco la piscina Lucino, ma mi hai capito quello che ti voglio dire. Ma stai scherzando? Assolutamente no. Cosa sicura che mi faccio il salto io, vediamo. Dipende come sono messo, ma se vediamo. Perché in questi giorni c'è un po' di casino, infatti oggi ho fatto continuato e non mi sono manco cambiato, mi sono andato direttamente in divisa anche a Monti. Capito? Mi sono andato direttamente in divisa. Perché sono uscito a parte, ho fatto anche al sole, sono preso la mia, sono venuto qua, ho pranzato, poi alle 4 sono andato direttamente dal carro. Non ti preoccupare, già al maggiorno io, già un po', vediamo. Se le serve, glielo faccio avere. Se non le serve, aspetta il sabato e glielo portiamo direttamente. Non è un problema, non è un problema. Tu puoi già giù, così funziona. Sì, non ho problema, mi piace domani mattina, se uscire prima di me, quando sono là, se no, non è un problema. Allora bisogna vedere come stai la situazione di Ghisco, se è una cosa di lunga, è vero detto, si può pure fare, mi fa mettere sempre baghetti. Mi va in natura. Se tutti quelli che c'è con lui, erano 2 e 4, cazzo, una sfiga, fratello, ho detto, si è sfigato, ma si vede. E vabbè, io lo avevo fatto. E la spiglia come radio quella? Alle 2 le fate fuori? Sento, c'è in tutte, c'è per 50 watt, c'è un watt in mano laterale. Di portante fissa, carico fittizio, c'è 80 watt, modulate ne ha 120 in AM. Quindi già va, già funge. Sì, più c'è che me le watt che al 140, diciamo, l'ha modificato, tipo quello che c'è Gianni, così. L'avevo fatto caso quello, non mi piace, ho particiato dentro, ecco perché non mi bruciava la goccia, assolutamente. Quello è stato fatto per me, proprio ho fatto da Carlo con tanto di strumentazione, picchi positivo e senza cagare. Invece magari quello che si fa in fretta si va, si mette il trimerino e si gira e si tocca, capito? Adesso poi quando vado voglio vedere i finali. I tuoi finali sono quelli della Toshiba, sono i tuoi. Ehi, Toshiba sono. Ecco perché, ha ragione Carlo. Costano poco ma sono efficienti quei finali. Perché quelli che ci vediamo sono Toshiba. Quelli dell'altra radio non sono Toshiba. Sono quelli originali della Yoshio. Invece quelli di Toshiba sono un pochino più tosti, sono come quelli del 140, anche il 140 non è Toshiba, è anche il 140, per quello che tengono molto la watt. Ah, Didier. Didier ci deve essere documentata. Allora, i finali sono i Toshiba, i 2879. Hai capito? Sono sveglio. Non so che bromizzo. Ho lasciato il tempo, poi ho girato la mappa, che tutto girando la mappa a rispondere ci vuole il tempo. E questi qua sono dei finali buoni, sono rinomati proprio come finali. Ma se non sbaglio, Carlo, te ti avevo fatto anche, messo i finali a mosso, te ne 4.40, ecco, davvero? Sì, questo c'è i finali a mosso, e questo c'è io. No, è solo una bomba. Questo arriva di portante bianca sino a 100 watt. 100 watt di portante bianca, senza saturare, e spinge sino a 180-190 watt in AM. Il mando laterale c'è il picco massimo di watt, a 200 watt pieni, viva Vito Massimiliano, è allucinante. E lo avevo messi anche, ne avevo messi praticamente fino alla mossa 3.40 che Carlo mi monta a me sempre, sono quelli 9.40, sono quelli, capito, sono quelli lì, da 100 watt l'uno, perché quelli 3.40 sono da 50 watt l'uno, invece questi sono da 100. Che non scalda niente la radio questa, ghiacciata, boh, completamente ghiacciata, e c'è la vetta che funziona, niente, perciò, l'ho messo anche quello di Sandro, la prima radio l'ho data a Sandro, il primo 440 l'ho data a Sandro, che poi la data c'era nel finale a MOSFET lo stesso. Lascia 9. Non ti accorgi, io mi sono di voce del radio, ma la visione che l'accompagna. Ma già bisogna fare un travaglio. E l'hai accompagnato? È accompagnato più, e adesso faccio. Adesso provo l'altro, guarda, io sono già inserito l'altro microfono, ma che cosa sta di dire? Vediamo un po' la differenza. Gianluca. Vabbè, adesso questo qui è il K, sto utilizzando il K appunto, l'unico indica perché non è fatto lo squelch che funziona anche con l'FM, cosa che invece le 757 ce l'ha. A te l'immagine Egido. 757 c'ha lo squelch anche in AM, il 140 non ce l'ha. Ah ecco, sì, scusa, il contrario era, sì, adesso l'ho messo lo squelch, sì, è vero, no, in AM che non va lo squelch. Questo 757 è un teleconversione, quindi c'è lo squelch anche in AM, c'è il preamplificatore d'antenna, è un altro tipo di radio più completo, però insomma niente da dire neanche al 140, no? Non posso dire che una radio non va bene perché io ci ho combattuto tanti anni con quella radio ed è da pochissimo tempo che me ne sono disfatto, perciò sono tutte belle le radio. Sono tutte belle, quando funzionano non rompono i riguglioni, sono tutte belle, vero Maspide? Proprio così, proprio la parola esatta hai detto, comunque mi manca, c'è un vuoto dentro casa. Vabbè, se vuoi vengo io. E vabbè, cosa fai tu? Più che guardarti la blocca. Cosa vuoi ti faccia? Se vuoi ti faccio un piacere. Aspetta un secondo che c'è mia figlia qua, riprendi che ho già. E vabbè, comunque abbiamo testato e fa benissimo, non bene. Io a Claudio lo sento bene anche col processore attaccato. Sento perfetto come la M, niente da dire, anche lo sento più forte, però si capisce tutto. Io a te. No, beh, quella radio sai benissimo che era qua, quindi non aveva nessun difetto al di fuori di questo piccolo handicap che è successo, niente di particolare, però so che va benissimo perché io lo usavo in modo laterale in FM, in AM, nessuno mi diceva niente, quindi questa è un po' più maledetta e quindi devo staccare per forza il processore, anche banda laterale devo staccare, se no spinge troppo, perché come abbiamo fatto con Carlo, gliel'ho anche detto, solo che io usavo il microfono normale in banda laterale e quindi mi ha detto allora te la spingo però appena di più, infatti avevo aperto il microprocessore nell'LC un pochino di più. C'ho il Mickey Gain della radio a 0, questo è tra lo 0 e l'1, quello del 430 figurati che è a 4, fate il conto la differenza che c'è. Va bene, comunque va bene, ma io passate in AM che non mi piace, almeno FM. Ehi Adam, io adesso stavo adoperando questa qua, guarda un poco come spinge questa qua, questa è la gemella di quella di Massimiliano, va bene. Ok, dai, va bene, vero? Ottimo, stavo inserendo il processore, invece di cambiare dal WFM memoria. Com'è, ma sei Gianni, come mi ascolti? Chiaro, non fortissimo, ma chiaro, dai. Appena più basso dell'AM. Sì, vabbè, ma non è niente, non è così che deve andare quella radio. Se tutti quanti le radio S9 fanno così, vuol dire che sono regolate in quella maniera lì e basta. Ma chi sono le S9, no? Cos'è? Questo è quello di Massimiliano, di quello che stanno facendo riparare Claudio. Cavaga, non gli avevo capito, gemello nel senso che era le S9. Gemello del coso, aspetta che abbasso qui un attimino, aspetta Claudio, non te ne andare. Secondo me lo qui. Ok. E anche questa radietto qua va benissimo, dai. Allora. Avevo un po' di stazionari, Com'è questo mic, che sto utilizzando un mic normale? Va bene. Aspetta, scusa, Claudio, avevo il volume basso, dimmi. Hai detto che va bene. E io sono col dipolo adesso, Considerate che sono col dipolo. Avanti. Vecchio con la buonasera. Ciao, Gianni. Ok. Ora, ora, ora, ok. C'è compagnia mia di Claudio, Gianni, Massimiliano un attimino si è assentato. Avanti Gianni. Ok, hey, ciao Dinamite, ben sentito anche a te, eh. Buonasera. Ciao artigiani per prendere. Buonasera Dinamite. Ciao Gianni Dinamite, buonasera, ben sentito. Non mi ricordo più paragoni, Dinamite. Sembra che stai uscendo dentro un fosso oggi, Questo è un segnale, 9-5, radio 5, bomba. Ma perché non esce l'amico tuo? Perché non esce? Che puttana. Ma non riesce a uscire proprio, C'ero davanti e manca parola con te. Cioè tu dalla tua postazione arrivi 9 qua e lui arriva a 7, ma senza radio, senza nulla, faccio fatica a sentirlo. C'era un periodo che lo sentivo bene e poi c'è fa la voce umore. Vabbè, avanti Gianlu. Gianlu. Ok, ok, ci sono, dai. E fa vedere però, ok, ok, un cazzo. Hai detto un attimino che ero contro l'endinoca, gra. Allora. Contagiato, Cazzo. Va bene, io adesso qui. A Gianni volevo farmi dare un controllino a vedere come stava rispondendo. Allora, quell'antenna è una 5 bande, Claudio. Ce l'ho anch'io uguale, che ho piccato a doppio, 5 bande, 10, 15, 20, 40, 80 metri. Appena fa tempo buono io la metto a fianco alla mantola, poi facciamo le comparazioni, vediamo se va bene. Dinami, chi che ti vuole Gianluca, ok, ok, onore a questo gatto di ok. Ehi Gianni, mi che sto controllando un attimino, davvero, come mi ascolti? 9.39. Sì, cazzo, 39, 40 no, siamo 38, dai. Io sono preciso, se è un attacco in meno di quarto dico 9.39. Va benissimo, perfetto. Invece, se commuto con questa antenna, invece, com'è il segnale? È 9.20 quasi, sì, 9.19 esattamente. Capito, Claudio, un'antenna e l'altra, guarda che differenza c'è. Allora, io ti ho già visto, sì, 9.40, 9.50 qua. Allora, hai capito? Questa qui è l'antenna quella nuova che ho piazzato, quella con la spirale che è rivestita in che sembra trasparente in vetro. E invece questa qua è l'antenna di Sandro, quell'altra che c'ho. 9.40, 9.50. Dinamite sì, 9.5, 9.10. Gianni sì, 9.60. Massimiliano, idem con le patate. Massimiliano. Stavo aspettando a rientrare, dai. Però forse Gianluca con l'altra antenna mi è sembrato di avere qualche tico negativo qua. Hai capito Gianluca? Riprova, non sono sicuro al 100%, prova a vedere. Allora, guarda questa antenna qua, che mi dirà il... Hola, e mi darà il rapporto. Avanti, il rapporto per cortesia. Sì, 9.40, però c'hai dei picchi negativi abbastanza validi, Cioè perlomeno qua mi segna così, poi non so dagli altri. Ok, aspetta, Ok, mi controlli ancora se i picchi sono negativi? Io qua sempre negativo vedo. Allora sì, 9.40 e scendi quando moduli a 9.25. Ok, guarda la antenna. Ok. Ok, invece questa come va? Ma questo è fisso signore, ok le balle. Perfetto. Adesso faccio un'altra okay. Per chi so che fende la moce, rilanciamo Giannino. A Giannino di Chiaramonte. Oh, chiavi faccia la monti. Vabbè, anche l'altra però la uso per altre circostanze. Boh, Claudio, io sono convinto, va, che la voglio piazzare, chissà, 5 bande. Metto un paletto, 2 staffe, la provo. Aspetta che... allora, io così sono a 100 watt, Gianni W, guarda, qui sono a 100, e qui sono a 200. Ok, fammi il passaggio dei suoi occhiali, guarda, vai. Allora, aspetta. Allora, qui sono a 100 watt, e qui sono a 200 watt. 9,40, 9,60. Dinamite, da te com'è? Così, 200 watt, sempre la radio, questo è il 440 con lo stato fino al MOSFET. Allora, 200 watt, aspetta, sto regolando, 100 watt. Forse si è ascoltato, è entrato a salutarci un attimino. sono proprio soddisfatto. Sarei stato ancora un pochettino divertiti un po' meglio con banda laterale, avevo fatto qualche passaggio in banda laterale. Ma in cuffia sei già, ti tocco il processore. Aspetta, esci. C'è un tempo sotto. Così mi ascolti meglio. Se ti ho abbassato il volume, non c'era problema, ho abbassato il volume, l'ho messo al mio. Perché se no era troppo forte in cuffia, eh. Infatti, adesso mi sono ricordato, sì. In cuffia tu dai, lascia. Solleva, se no senti agli altri che ho tolto il processore. KK. Ui, ma ancora giù. Cigazzi. Quindi Massimiliano, notizie, quando rientri dalle ferie? No, speriamo fra una decina di giorni. Ancora? Ancora, allora. Se non c'è niente. Sì, la rottura di balle. Bella rottura di balle. Quando il tulipano nero, che è il tulipano nero? La signora Margherita, guai. Come sei guai, sei la stessa pugnetta. Avanti Gianni. Perché non lo sapevate che era tulipano, Gianluca? No, io la prima cosa che sento, la verità. Ma io già lo ce l'ho anche segnato al telefono, Gianluca tulipano. Io ho sempre sentito come Gianluca, non avevo mai sentito il tuo tulipano nero, infatti non sapevo niente, la prima parola è sede, io ho sempre chiamato Gianluca. Sì, ma infatti va benissimo come il nominativo normale, diciamo, nel nome, da voi il nominativo come ti credo Spalviero, ma dici tu Bulldog, io, però se ti chiamiamo Pannomo, va bene, manda pure meglio. Cazzo, io ormai cosa con Pizzone, tu c'è un fiore, tulipano nero, cazzo. Se te ne a Margherita, cazzo, chi chiamava lo figliolo di Beciagudina, tulipano. Oh, così si chiamava? Allora, veneno che tulipano. Oia. Allora, abbasciamo il fiore. Perfetto, Gianni, doppio rompo. Oia. Mi sa che sono ringalluzzito. Cosa già? Se vuoi, saluto. Cioè, in genere, bene o male, noi ci chiamo quasi tutti per nome, là. Magari proprio capita, ci chiamiamo così con nome nativo, ma in genere quasi tutti per nome. Se vuoi, ti chiamo tulipano nero, eh. Io ti chiamo sceriffo. No, va bene, Massimiliano, per nome va benissimo. Troppo lungo, Troppo lungo, va benissimo questo. Per me va bene il nome di battesimo, diciamo, dai. Beh, non vuoi chiamarci, ti chiama tulipano, se ti chiama tulipano non è così lungo, dai. Tulipano va bene. Diciamo per mantenere la vecchia tradizione della 27, che sarebbe bello invece chiamarci tutti per nominativo, poi il nome qualche volta, ma. Per mantenere questa tradizione che c'è sempre stata del nominativo. Per me è la stessa cosa, mio già, perché come siamo per nome o per nominativo. È come vogliamo, ma non ce n'è problema. No, a posto di tulipano, magari nero era io. Calimero era? Era Costantino, un amico mio. Non verrà più, ma già vede ancora, ma non ha, chissà se rientra, già c'era Costantino Calimero. Costantino Carioca? No, Calimero. Ora non so se si trovava con le Kiwi, ma trovava la, faceva la stessa camionista alla Turista Stanza. Non l'ho mai sentito. Ah, ho capito, stai dicendo per Costantino. No, ma ragazzi. E poi è andato a lavorare con Aroni. Ma Costantino. E va via sempre lo barretto da Gias, avevo capito chi è. E poi è andato a lavorare con Aroni, Costantino. Io lo so chi è. Oh, che tu che è tulipano, boh. Tulipano, è roba di boh. non mi suonami. Beh, roba di Gugliuppa in mezzo. No, tu sei confondente. Costantino, guarda che il cognome fa Monti, cosa che sto dicendo io. Monti? No, no, no, questo non montava, questo era già montato. No, allora era un'altra bassona. Era un'altra bassona. Vabbè, comunque io diciamo Gianluca, vuoi tu cazzo di riparare, ma non mi piace. Sa di cose, di... metto... tu baragguro mi. Io ti ho detto di broccio, stavo aspettando che dicessi di broccio. Va benissimo così, andrà bene. Adesso stacco questo, e forse andrò all'altro. Quanto dai che baracchini? Come ti vai? Ma ragazzi come un tattore vai, Gianluca? Ok. Ok, le palle. No, forse mi sto sbagliando. Quello che mettono nelle macchine quando si sposa la gente, questi i giatti, li fanno, diciamo. Sono i garofani. Ah, i garofani. Mi sa che questo ne va a 75. E a voi c'è i crisantemi. Cazzo, a voi sono margherite, bu. Poi ci sono cazzi e mazzi. Appa, gappa. Ma stai usando adesso, Gianluca? Sbagliato baracchino. Dipende di funzionare di tubo santico, e deve essere che mi si è pushato il coso del microfono. Ma porca miseria, grazie alla Dio, sta usando sempre il nome adesso mio, Massimiliano. Positivo. Beh, ma col microfono originale o amplificato? No, il microfono amplificato questo, mi guarda. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Sì, assale, buffinoso. E non è mancato assai, eh. Ecco, vedi, con questo col topogramma inserito. Adesso lo spengo. Fa come processore. Funge da processore. Ma però ti porta dietro un sacco di rumori, ventole, televisioni, ferro di accesso. Eia, infatti lo tengo così, lo leggero, senza le... senza il topogramma. Avanti, sparvie. Esitere non c'è modo più rutto, se non si drombe, doppio. No, io sono sempre sveglio. Secondo me quello è un apparato, lasciate così, va bene com'è, originale. Spizza tutti dai suoi puri, tutta la potenza. Stai dicendo, ma se no. E allora? Allora cosa bisogna provare all'S9 Massimiliano? Sta nel 251, quello della linea Lecraft da tavolo, che però non è preamplificato, da tavolo. Certo, c'è una capsula allucinante con il microfono. Microfono Turner, un Turner 251, tutto cromato, già uno spettacolo da vedere con il microfono. Bello veramente, più bello del celeste Gianlu, mi piace di più così, tutto cromato in acciaio. Ed è praticamente della linea valvolare, però non è preamplificato. Quello potrebbe andare bene, perché la S9 non ha bisogno di preamplificazione, la preamplificazione c'era all'interno l'apparato. Se tu usi un microfono esterno devi abbassare tutto, devi, non puoi usarlo con tutte le sue funzioni, è quello che a me dà fastidio. Se le funzioni c'è le devi usare. Un attimo. Sto usando un mic amplificato, ma diciamo neanche la metà della metà dell'amplificazione senza le, il tuo programma inserito, se no vedi dopo mi resta nelle cuffie, ma insomma ogni tanto non esce di fare l'ascolto. No, innesca o i è il palascolta che può far innescare la potenza, sono le due cose che ti fanno innescare il microfono. Ma io ho provato il microfono, però una soddisfazione più grossa ma la col suo che è normale e va benissimo. L'amplificazione se la prende l'apparecchio. E anche l'MC50 va bene, ciao, buonanotte, sto andando a letto qua, sta, io fra poco me la devo pulire. Anche l'MC50 dovrebbe andare bene col Magnum, ma dobbiamo mettere il connettore a 4 anziché a 8. E va bene perché è molto semplice come microfono, è da tavolo come l'MC60, però non è preamplificato. Quindi sono microfoni che dovrebbero andare bene. Vabbè, dai, raga, che io è arrivata l'ora domani. GBJ. Quindi buonanotte a tutti, a te delle due chiacchiere e ci sentiamo alle prossimine. Ciao Gianluca, Gianni, Massimiliano e tutti quelli che sono all'ascolto. Riprendi Massimiliano, se lo riprendi tu Gianni. Ciao Claudio, là, buonanotte, ho sentito che ti hanno chiamato per andare al Nanno. Là. Andà bene, buona nottata, grazie momentaneamente per quello che stai facendo e alla prossimine. Avanti Gianni. Ciao, ciao, ci sentiamo tra buonanotte e un trabocco per domani. Avanti Gianluca. Ciao, buonanotte Clara, ci sentiamo domani. Buon tutto per domani, buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte, a domani. Io ti vostro conto da voi, Massimiliano. E se no ti regalo un tulipano, però ruio anche che niente. Ehi, ehi, afferma il conto la tu, allora. Include, te lo buono, il spada è tutto. Tu non hai spada, io sono pesce spada. È vero, hai sbagliato. Cazzo, un caso mi do con pesce spada, se la vuoi mi piace troppo. Spada mi piace. Spada ti do, là. Vai, già sarà ricompensato, vai, non c'è problema. Vai, a me bibirite, vai. Puoi fare questo e altro io, già lo già, non ve ne ho problemi. Baci, abbracci a tutti, buonanotte. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ma chi ne pesca, Massimiliano? Tu li peschi questi tutti? Massimiliano. Sì, già. Ti ho detto, ma tu ormai non devi lavorare. Sì che devo lavorare, beh. Problemi ci sono, mi alzo lo stesso, non c'è problema. Ho detto, tu li peschi questi tutti? No, no, io c'ho, diciamo che dalla parte di mia madre, sia fratelli che nipoti, sono tutti pescatori, hai capito? Allora, erano tutti pescherici e balle varie, tipo come potrebbe essere invece qua a Porto Torres. Ah, ho capito. E quindi li buschi sempre, vabbè, il tono non è una cosa, diciamo, che costa poco, sono molto generosi, dai. Diciamo che il tonno è un pesce un po' isciapito, dai, nel senso, cioè non è che è isciapito, vuole saputo cucinare secondo noi. Gli hanno dato un pezzettino a Claudio, ma l'ha mangiato 4 lì, l'ha fatto in tutti i maneri. ma la maniera che gli ho detto io mi è piaciuto di più. Che provo a fare la pizzaiola, perché lì togliamo l'asciutto della carne. Già io già l'ho già mangiato, però diciamo che per il tonno mi piace più il pesce spada. Vabbè, a me il pesce spada va nei fettini di carne, va a russo, io. Positivo, quindi diciamo che quando c'è mare buono il pesce fresco già non mi manca mai, là. Non mi manca mai perché quando mia madre fa il ghiero glielo mandano anche per me, capito, quindi il pesce non mi manca. Avanti Gianluca. Ehi, a me avete già fatto l'inghippo, la cosa non riesce al suo microfono, ha smontato il microfono, invece era che sul tastino di sotto che sei pushato, vai, non ammala, vai. Vabbè, a volte vedi piccole frontatine, no, ma sono contento che oggi che mi ha fatto quasi funzionare la radio, là, diciamo quasi a posto. Io non la ce la fa, ma ce la posso del tutto, perché poi, come si chiama, quello di Chiaramonti, gli ha lasciato aggiustare le radio, gli ha sempre aggiustato le radio, specialmente quelle di quel tipo. Positivo, positivo, ma poi mi stava, ho sentito che gli ha abbinato adesso l'MC80, e dice che è una bomba. Perché bisogna saperlo, chi li ha provate magari a fuori provare sa come usarla. chi non l'ha provato cerca di provare, vabbè, tu hai provato quel microfono, non sapevi che c'era questo inghippo dei voltaggi, eccetera, eccetera, cosa dicevi? Chi l'ha usato lo sa, quindi vabbè, tante volte si fanno sbagli che solo per, diciamo, perché non si conosce l'apparecchio, capito? Sì, in poche parole, c'è presente il cavetto che va attaccato dalla radio al microfono, quello lì a me me l'hanno portato tagliato in due, però con i fili già sbucciati, hai capito? Quindi cosa ho fatto io? Ho preso, colore per colore li ho saldati, no? Però poi lì, quando io ero innestato alla radio, non sapevo che invece nel connettore erano, cioè, non corrispondevano i colori al puntale, diciamo, dai, hai capito? Ecco perché non funzionava up and down e tutte la maravano. E in più gli ho mandato sicuramente corrente, in più poi ho attaccato la batteria, cioè avevo anche l'alimentatore, ho attaccato la corrente per mandare i 9 voce al microfono. Quindi fatelo conto, un casino si combinato, però non sapendo. Vabbè, chi se ne immagina che c'era finito sottiti nel collo dello spinotto. Uno segue i colori e quello che colori, colori con colore, e pensa di non sbagliare. Tutti quanti avrebbero fatto lo stesso errore, essendo profani. Quando tutti ti dicono, guarda, tu una volta che saldi colore con colore, cioè bianco con bianco, rosso con rosso, verde con verde, cioè una volta che tu saldi tutti quelli lì, che poi le metti tanto il coso, il vulcanizzante per bloccare bene, inserisci nella radio e vedi che funziona, cosa fai? Lo spinotto apri, non credo che apri lo spinotto, hai capito? Io l'ho saldato, ho provato, ho attaccato la radio, ho visto funzionare e l'ho mollato così. Però Claudio già dall'inizio mi diceva, cazzo, poi qui sembra stare nel consumo di batteria. Cazzo, che stavo cambiando una batteria alla settimana. Non sai come me la faceva scendere la batteria al volo. Ma perché queste batterie? Dove le metti nel microfono? Il microfono va con la batteria di 9 volte. Ah, non si prende l'alimentazione dall'apparato, tu gli dai l'alimentazione sia dalla batteria, non escludendo la batteria, poi gli dai anche l'alimentazione dall'apparecchio, così. Penso che era così, credo che fosse così, perché io non credevo, perché cioè quando io l'ho lasciato senza batteria che andava a accendere non funzionava il microfono, quindi gli ho attaccato la batteria e si è acceso il LED lampeggiante, hai capito? Poi però sicuramente era sovralimentato perché magari qualcosa gli arrivava dal microfono, cioè dalla radio, magari una piccola percentuale in più le 9 volte della batteria, però cazzo ogni settimana mi dovevo comprare una batteria nuova, mi sembrava strana questa cosa, hai capito? Già. Poi allora mi sono rotto la scatola e ho preso un alimentatore a corrente continua di cellulare a 8,8, l'ho collegato all'elettrico, gli ho fatto l'attacco per la batteria, ho tolto la batteria alle 9 volte e gli ho attaccato il coso, questo alimentatore. Non so, purtroppo secondo me è questo, che un po' gli dava la corrente l'apparato, un po' se la prendeva dalla batteria e ti ha rovinato l'apparecchio, capito? E probabilmente la batteria la buttava giù, il fatto che gli entrava corrente dall'apparecchio, capito? E quindi la batteria andava sovralimentata, sicuramente si scaricava, pure magari la rovinava. Guarda già, se io mettevo una batteria per esempio oggi, che oggi è lunedì, io domenica sera o lunedì dovevo rimetterci un'altra batteria, proprio me la portavo a zero, hai capito? Gianluca, secondo te? Sì, a me, guarda, me l'ha fatto un'altra cosa, un'altra radio più particolare e non ho già più fortuna da fare, mai più, ha detto, se cosa li pongo i microfoni suoi di linea, se non ha giù pazienza, allora, di queste manovre non le posso più, domando, facevo conto lo schema, mi iscritto, mi, per non guardare il display, per non guardare i manuali, mi. Ma io il manuale ce l'avevo, c'è scritto anche tutto, hai capito Gianluca? Numero 1, il colore del, del filo che fa la cattolina, il puntale, hai capito? Però cazzo, una volta che mi danno un cavetto sbucciato da una parte o dall'altra, dico, collega questi filmi e vai a posto. Cosa ne sapevo io che dentro questo spinotto della radio mandasse corrente? Non lo sapevo, hai capito? E certo è così, sì, c'è una limitazione. Beh, io vi saluto là, che sto andando a dormire. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Ah, aspetta già che facciamo le parti adesso. Sì, a me. No, sta venendo a dormire mia moglie, adesso mi disturbo là. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime, buonanotte. Buonanotte Gianni. Sì, Gianni, cioè, ci vediamo domani, insomma. Oia, oia. Buonanotte, buon tutto, buon trabacco per domani. Grazie, altrettanto, ciao. Senti, voilà. E anche io mi ho fatto fare i passaggini e poi me ne vado nel letto con mia figlia. Sì, Gianni, adesso chiudo questo spinotto, ho già saldato. Sono passato un tempo buroso, eh? Un colpo no. Ecco qua. Sì, così proviamo un attimino questa radio, come va? Allora mi ha fregato, si è spostato quel, come si chiama, quel tastino dietro, sotto che c'è, e ha disinserito la portante. Mettiamo questo adesso, attino. Ti fa una cosa, quel pulsantino una volta che è bloccato, mettile una goccia di coso, di colla a caldo, vedrai non si sposta più. A riempiglielo dove c'è il... praticamente il carrellino, così non si trova la... si trova il coso, non cammina più, voleva che l'avevo spostato su un bordo, non accorgendomi se era disinserito. Così devi fare, oppure la parte sporgente con una taglierina lo tagli, hai capito? In modo che se tocca da qualche parte non te lo porta dietro, non te lo sposta. Sì, ma io non voglio rovinare l'originale, già, capito? Ma Massimiliano, eccolo qua, sta funzionando bene, mi sto ascoltando con le cuffie ed è perfetto. Cazzo, non pagava. Questo qua è il più 2, questo è il più 2 con un apparato americano antico, 6 AS, 23 canali, ecco qua, l'altro è acceso a cuscio. Saremo tutti, avremmo fatto già, ma già. Massimiliano, ma cosa ti dice? Ma domani cosa ti fa? Cosa? Domani ti devo chiamare. Ma mettiamolo a provarlo, va, cavolo, provi e vediamo un po' poi giallo. Sempre via telefonica, capito? Ma se te lo prendi, lo provi. Sì, ma io non ho capito che cosa è questa cosa qua. L'amplificatore? Sì, ah. Mamma mia, che leggera. Io mi assurgo con queste cose. Tanto giù c'è cioè, l'alimentatore 50 ampere, così. Sì, io c'ho anche l'altro qua. Io c'ho anche l'altro a tirare il collo. Questo da 45, 30, 40, 45, che è questo qua. Con la ventola di quelli antichi, quelli con il trasformatore all'interno. Positivo. Ma io penso di intorno con 45 watt, con 45 ampere dovrebbe dare intorno ai 2,70, credo, 2,90. Domani vai. Domani la cuido in tutti. Da voi se riesci a farla andare a 24, allora la musica giamba, tanto sono 4,20, 4,30. Ma la carogna media, che va giù uno, chissà il prezzo che fa da a 24, va giù un terra spaventoso, mi sono dimenticato a farti rubire la strada in magazzino, uia uia. Solo grazie che non fa da pulire nella mensola, visto che va giù nella banca. Tocca pulire un carrello con le ruote, perché è pesante, peserà un 40-50 kg. Scusa, sì, sì. Sì, c'ho quello lì, c'ho anche lo stabilizzatore di corrente a 5 kW, che è quello lì da mettere all'ingresso dell'appartamento, non conviene neanche a pulire, no, che mi va giù le radio. Fisso direttamente all'ingresso dove c'è il contattore, lo stesso quello lì si può mettere sopra una specie di carrellino in piedi e si fa una protezione in legno magari decorata, no? Giusto per non far vedere che c'è lui dentro. Positivo, positivo. Sì. Questo stabilizzatore, ma stabilizzatore, questo inverter, tu attacchi a 220 e ti manda la corrente a 24, così è? Sì, a 24 a 12 pure, capito? Oppure la prendi a 12 o metterla da 220? No, ho capito, sì. Allora lo puoi provare sia da una maniera che nell'altra, e cavolo, e intanto la via trattata a 24, scusa. Ma io non lo salgo Massimiliano perché è troppo pesante, un giorno mi ha sfiancato, l'avevo messo qui perché era un periodo che ero senza alimentatore e l'avevo salito con una batteria da 100 ampere, no? Una della macchina che ci avevo in più e niente, dopodiché quando ho comprato l'alimentatore è tornato tutto alla normalità, ho preso 50 ampere, dopo c'avevo ancora questo da 35, però maggiorato, è maggiorato, sono stati fatti dei lavori, infatti devo vedere quanti ampere è questo qua, perché è di più di 35 ampere, me l'aveva detto però non mi ricordo, allora si prova con quello lì, capito? Le faccio tirare il collo un pochettino anzi a questo alimentatore. Guarda Gianluca, ti ripeto, allora io con il mio Alan 48, quello che mi sono venduto, era senza doppio modulatore, quindi le davo più o meno 4-5 watt d'ingresso, senza doppio modulatore sto parlando, con 25 ampere, con lo strumento attaccato, saliva intorno ai 2,70, una cosa del genere. L'abbiamo provato a casa di Claudio con il suo alimentatore che ha 30 ampere o 35 ghiera ed era intorno ai 2,80, 2,90, una cosa così. Ma sforzando l'alimentatore? No, sforzando. Qua mi assorbiva 15 ampere con 270 watt. Quindi allora c'è neanche bisogno di una piccola domanda a fare di collegamento a Idi, il raggio c'è, no, che è nato il raggio 3, il raggio buco, è nato lo sgabello un attimino che lo stavamo mettendo in moto, questo alimentatore, ed è sotto tensione di tester, si è attaccato il tester, è analogico, e sto ogni tanto controllando se mantiene sempre la stessa tensione, questo qui già va bene, quello da 10 ampere che mi dispiace, però l'avrei messo giù, mi serviva per giù, avevo già il baracchinetto pronto, la discesa pronta per quest'estate e niente, sì, vabbè, niente, parava già c'è pure la discesa mazione, per cui ci mi guni la batteria di macchina sotto carica, c'è la guglia. Te lo provi, e quello non scalda, quello non scalda, Giallo, hai capito? Poi manda laterale, ne dà ancora di più. Miglia, dai, vediamo Massimiliano, che so un po' gusci, a chi no, dai, non è che lo posso permettere più di tanto. Sì, positivo, provo a provarlo, non è che ti devi per forza abbigliarlo, provo a provarlo così, vedi un po' come funge. Yeah. Esattamente. Sì. Ma già un pochettino. Un attimino, Massimiliano, che controllo. Stazionale sono a posto. La stazionale adesso con il dipolo verticale o come scende, come si in orizzontale, come si? Che cosa? Adesso come sto trasmettendo? Sì, la stazionale con il dipolo o la verticale? Con la verticale sto andando. Positivo. Positivo, va bene. Ma non si potrà attendere un 23 canali però. No, non si potrà attendere 23 canali, con Turner. Questo qui può ancora andare, mi guarda. 1, 2, 3 prova. 1, 2, 3 prova. Vedi? Questo può ancora salire un pochettino. Di, diciamo così, di volume microfonico. Sì, ma no, non è molto chiara però. Come la portavi prima era meglio. E così, in questo, in questa posizione, dai. Via. Posizione va bene. Sì, sì, questo è il 23 canali. E questo qui l'ho provato anche in mandalaterale, è fenomenale, guarda. Una radioletta, guarda, veramente simpatica. Via, positivo, ma quella deve essere anche quarzata. Perché proprio si sente come apre la portata proprio dopo uno. Sì, vabbè, questo è anche il microfono, la tipologia del mic, questo qua, del tatto del Turner. Che anche fa questa cosa. Sì, quarzata e quarzata. Ci sono le bisacolte. No, non te lo saprei dire, guarda, ancora non ho avuto ancora l'occasione di provarla. Adesso che comincia, che comincia il bel tempo, che comincia l'estate, vedremo un poco. Riccardo, un po' di canali va. Ma che avevo avuto un po' di canali in più, avevamo qui sopra. Se la provata in un 45. Positivo. Ma invece la serone da che colpo la rubiglia, no? Ma io la verità. In macchina, avendo la macchina non lo. Ce l'ho anche da poco, ecco, capito? Diciamo che non ho visto delle notevoli differenze, oppure che mi hanno fatto preoccupare, hanno detto di subire al golpe, anche perché io quando è così basta che spengo l'amplificatore di antenna e lo faccio andare solo con lui, capito? Dopo c'ho un buon filtro, cazzo, ma quanto attenua, ha visto là quel primo in alto che trovi subito sul volume off on NB che fa l'inserimento del filtro e dopo puoi anche spegnere diciamo così il frequenzimetro. Quello non sa quanto attenua quel filtro. Ma io ce l'ho sempre disinserito, lo sai. Tu ce l'hai sempre in off, mettilo in NB, non blanker. Tu poi guarda cosa. Ma non è che te ne levi segnali. Ti leva quel disturbo di QRM, queste cose qua, però continua a sentire le modulazioni notevolmente. Yeah, c'è ragione, però ricordi la ripiglia, questo usando la casa io me ne accorgo, ho provato anche poco fa quando c'era Gigi, mi devo spostare di due canali per non sentirlo più. No, non è proprio così, credimi. Io una volta erano dei camionisti che vanno mollo, era la coscienza così, ma erano i bumpendimi, erano i buru vizzini, erano. E erano rudotti, diritti di un ruzinco, nello zinco, ma li sentivo quando modulava, per esempio, Giampaolo, li sentivo un po' sotto, no? Che mi strappavano un pochettino. Ci ha alzato il buru io, allora ci sono pushati. Non ha più intesi, vabbè dai, chi vi. Ha detto che è normale, ho fatto una radio comunque a 20.000 euro. Non esiste, se tu sei un canale vicino o sei vicino, comunque sia, se parlano quasi di vicino alla stessa frequenza, e stai spingendo, per poco di fa, non verrà dove ti tenga. Insomma, non è proprio così, no, Giallo. Queste prove io le ho già fatte, io c'ho Gigi che abita vicino a me, capito? E quando attaccava con 600 watt, cazzo, le ho nostre antenne ci freno, la linea d'aria siamo più o meno 820, 600 metri, quindi quando attaccava, anzi quando ero l'anno 48 lo sentivo in tutti i canali, sia sopra, sotto, di fianco, di là, tutti i canali sentivo. Con il Galaxy Pluto mi sposto di un canale e non lo sento più. Hai capito? E se no col tornado, quello che ho dato a Sandro. Con quello bastava che mi spostavo di un canale e non veniva più parisci, non lo sentivo più. E può crescere questa idea che c'è una radio più, un pochettino più, diciamo, selettiva, che è più curata per quanto riguarda appunto i disturbi e l'interferenza di modulazioni vicine alla frequenza. Ma io comunque, guarda, non sono scontento di questa radio. L'unica cosa, guarda, di quella cazzo di sulle FM veramente ma rompito un po' guardo di faccio da verità, ma ho già rimediato tutto lì. Se lo devi usare qui a tavolo, basta metterci quel microfono che le ho fatto lo spinocchio e va bene, se si tratta di pannelle FM. Se invece si tratta di cambi da macchina, meno male c'ha due ingressi, in uno lascia il mic normale qua nell'AM e dopo l'altro le metto amplificato, se per andare in FM. Sì, vabbè, ma tanto in FM, Giallo, fai giusto qualche prova, non è che sei sempre in FM. E con Giampaolo quest'estate, ma anche con altri, quando ci sono state quelle giornate di propagazione, già avremmo qualità dell'FM o già l'abbiamo usato, guarda, già in certi giorni è stato indispensabile, ce l'avevamo, se no era un casino, guarda. Sì, vabbè, ma già ci sono anche i canali Alfa, hai capito? Ti sposti, te ne vai magari in H, nei canali molto sopra, nei canali Alfa, e va bene lo stesso. E anche, chi ce li ha, ma la maggior parte è che macchina magari hanno il baracchino 40 canali normali, come ti va, te ne? Bruce, è vero, ce lo compareggiano, uno come ti dice. Beh, Giallo, dai, io ti lascio che adesso vado un po' a vedere come mia figlia. Grazie al QSO, tu domani mattina non lavori domani sera, giusto? Sì, domani di notte sono, va. Domani faccio un notturno, va, che mi serviva la mattina libera, e allora abbiamo fatto un cambio turno, e faccio di notte, sì. Va bene, va, ok. Allora Fabio, lo squillo e quando stai scendendo mi avvicino lì a San Giovanni e te lo porto. Ok, dai, rimaniamo così, dai, prendiamo il caffè. Va bene, ok, ma se andiamo, buonanotte, dai. Buon tutto, un bacione alla pupetta, così si riprende più presto. Fammi bene, ma se andiamo, buonanotte, domani. Dai, anche tu, dai. Ciao Gianluca, buona serata e buona continuazione, ciao.